sono tornata a Sasso Maggiore Presente, che andavamo. Siamo campioni d'Italia, ho giocato, Tu apro l'acqua giù qua. Qui? Tutta l'acqua, fuori di lì. Non posso neanche aprire. Non posso aprire l'acqua. Hai la corrente? No, no, stacco di lì. Metterla di là. No, c'è il tattico. Ah, ce li hai, oh, bene. Bene, bene. Se vanno? Se vanno, se no non so. Come mai? Non mi invita ad andare in bagno? C'è 60... Vittorio, ha 60 anni sto bagno qua. Lo so. Ma l'importante è che funzioni, sì. Ma non ti fai niente. Io sì, la raga mi ha detto... È meglio che sta ancora... Parla italiano. A Milano dico. È meglio che sta con la corrente. Ma chiesa lì a me cosa Andrea fa. Chi trida. Capisci il milanese? No. Beh, capisco tutto. Ma chiesa lì a me cosa Andrea fa. Mi piacerebbe. Non c'era anche che possono solo dire. Sì, beh, le diremo cosa intendono per festa. Festa o casino? Io ho detto adesso vado a rompere le balle alla Valentina. Lei è la figlia di Marco Scott, che è sempre da sì, me. Sì, sì, la conosco. Questa no. Qui è sempre la. Mi fa solo dispetti. No, ma sei curiosa. Quanti anni hai adesso? Ne ha 20. L'età della l'età di Gloria. Sei del 2001? Gloria le fa 12 adesso. Ma Gloria adesso dove vanno a casa? Casa sua. Tutti e due a casa sua. Io voleva venire la Gloria, mia nipote.